Musica Maestro di Armando Turno. Un cordiale saluto da Armando Turno e un augurio di buona domenica per tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è in collegamento con Mosca, dove c'è il nostro amico, il professor Gajduk, professore, ricordo, di storia all'Università di Mosca, accademico della Russia, già accademico dell'URSS e chiaramente anche studioso di molte cose italiane, oltre che un patito eccezionale di musica e conoscitore di tanti grandi musicisti. Qualcuno mi chiede sempre: ma quante lingue veramente conosce? 28 lingue, professor Gajduk? Dobbiamo rispondere sì, se nel frattempo non ha imparata qualcun'altra. So che non voleva imparare l'ungherese perché aveva 36 o 32 declinazioni, adesso non mi ricordo più quante me ne disse, però insomma tutte le altre le conosce. Buonasera professor Gajduk. Buonasera carissimo Armando, eccoci di nuovo ai microfoni della bellissima radio che è ascoltata in tutta la ex-URSS. Ecco perché lei ha diffuso la cosa. Ma professore, quante declinazioni ha imparato dell'ungherese o non ha ancora cominciato a studiare l'ungherese? Perché so che le mancava. L'ungherese ha 36 casi, mi pare, però siccome ero già un ragazzo cresciutello non ci aveva più la testa, perché questo mi scusa. Beh, comunque ha imparato altre 28 lingue, insomma, che non... Sì, ma per parlare, la lingua per parlare più, la più bella, diciamo, la più pratica, è, per me è l'italiano, vabbè, così allora, come senti, per tanti russi ancora. Però lei si è laureato anche a Ginevra e quindi sa perfettamente il francese, so che ha tradotto molti libri dal francese. Sì, sì, ho lavorato negli archivi della Madame de Stael, grande viaggiatrice e che ha scritto bellissime teorie letterarie che qua, sì, questo lo so, qua in Russia corrono ancora. Professore, però lei al Papa, quando è stato ricevuto con una delegazione russa, si è rivolto in polacco. In polacco, però lui mi si è rivolto in russo e così eravamo un po' sulla stessa lunghezza d'onda. E siccome lei fa parte della commissione per il premio Nobel per la pace, una volta ho sentito, ero a Berlino, alla televisione tedesca, lei parlare in norvegese. Perché la... Ah, sì, sì, il norvegese è un relitto del tedesco molto antico, va bene, ma molto va bene. Bello. Ecco, questo. Quindi adesso non parliamo più d'altro. Altro perché poi lei parla ovviamente un eccellente inglese, parla troppe altre cose, anche lo spagnolo, ma adesso sì, 28 sì, lingue. Sì, Armando, perché poi ho studiato la musica nella scuola, sin dall'elementare fino all'ultimo respiro dell'interesse per la musica, pratico, teorico, sono anche amico dei libri del professore Lavagnac, francese, ecco, ma... Alberto Lavagnac, un francese che corre ancora in Russia come corso pratico dell'armonia. Ecco, ma professor Gajduk ci ha mandato alcune musiche scoperte, come al solito, lui ha tutte queste scoperte nell'archivio del Conservatorio di Mosca e soprattutto anche di Radio Mosca, e ci ha mandato questo galop di Lavagnac. Professor Gajduk, che cos'è? Questa, ha mandato lui le musiche questa galoppo volta? Il galoppo mi pare stato scritto, comunque siglato, l'anno dell'inaugurazione della Tour Eiffel a Parigi. È un galoppo fantasioso, grottesco, ma nello stesso tempo è molto russo, perché dopo Lavagnac, che tutti i musicisti russi hanno studiato a scuola, è la prova di poter suonare con un piano solo a 8 mani. Quindi 4 pianisti su un piano solo. Lei ci ha mandato questa registrazione. E sono stretti, se sono magri, pazienza, ma se c'è una di grosso taglio o una di grosso taglio, crea problemi. Certo, perché 4 pianisti in un pianoforte. Ma cos'erano quei fischi che si ascoltavano durante... I fischi sono famosi, i fischi del Conservatorio di Musica di Krasnoyarsk in Siberia, un fischio siberiano, diciamolo così, Ma siccome in quel momento scritta questo spartito di Lavignac si profilava l'entente cordiale europea, cioè l'intesa, è un commento anche politico per la situazione internazionale europea di oggi, il fischio chissà di dove viene. Vabbè, poi ce lo dirà lei, non mi dica che viene dall'Ucraina perché poi creiamo un po' di problemi, insomma. Ah, niente, no, è un fischio diremo anarchico, e quindi siccome la situazione è balorda, i russi ne sono molto sorpresi, quindi rileggono di Lavignac il corso completo teorico e pratico de dictée musicale. Ecco, compresi i fischi. Il testo russo è una poesia pubblicata sul giornale Pravda all'occasione dell'evento, e che è piaciuta a Shostakovich come commento per la musica che aveva già in testa, mi pare così nasce, perché poi la dedica seconda, la prima dedica a Stalin cancellata, è la dedica a Yuri Gagarin, quindi racconta il testo del volo del primo cosmonauta di tutto il mondo nello spazio, che vede le stelle, che vede la Terra e che deve tenerla dura per arrivare il primo sulla Luna. Ecco. Poi invece arrivarono gli americani, insomma. Ah, succede così, la storia mai rettilinea, la sua bellezza è che va a zigzag. Sì, certo, lei essendo professore di storia ritiene proprio questo, che vada a zigzag. Senta, Shostakovich... per me è molto zigzagata. Ecco, Shostakovich comunque si è ispirato a questa poesia. La poesia apparve sulla Pravda, che era l'organo un po' ufficiale dell'Unione Sovietica, ed era una poesia per il compleanno di Stalin. Shostakovich la compone e poi la dedica a Gagarin in un secondo tempo, sì, cancellando la dedica a Stalin. È un po' questa la storia, quindi. È un po' questa la storia, ma da quel momento è un punto obbligatorio di tutti i cori per i ragazzi che scelgono sempre un solista con la speranza che potrebbe ripetere il percorso di Khvorostovsky fino alla Scala e fino al Bolshoi. Certo, non è un percorso semplice, insomma. Certo, ma da questa prima registrazione della voce da bambino, da piccolo ragazzo, si capisce che è un percorso abbastanza duro e non tutti ci arrivano. Io per esempio non ci sono arrivato al traguardo, però lei... con la mutazione della voce l'ho persa. Ecco, però lei ci ha detto che ha cantato nel coro di Radio Mosca. Sì, da bambino, da ragazzino, certo, mi pare di aver già trovato, ma poi qualche altra volta presento una sola registrazione che si è conservata dei tempi, dove canto quattro righe di una canzone popolare in quei tempi. Ecco, ma questi canti che Radio Mosca registrava avevano dei cori molto preparati, avevano delle buone orchestre, perché diciamo la qualità del suono è rimasta ottima, insomma. Ah, certo, ma perché, guarda, per registrare una canzone ci voleva una settimana, e guarda, era un tormento, specialmente per i piccoli, ma con molto divertimento, perché c'è sempre, se era vivo, c'è stato sempre il compositore, il direttore d'orchestra, il regista del suono, tutto era per i ragazzini, era un divertimento più che mai. Ecco, comunque, professor Gajduk, al di là di queste sue prodezze infantili, lei ha coltivato tutta una serie di amori per la musica, ha conosciuto tutti i grandi interpreti russi, tutti i grandi cantanti russi, ha conosciuto le ballerine russe, perché Olga Lepeshinskaya lei la conosceva benissimo, eccetera, eccetera. Ha avuto una bella avventura, insomma, con la musica. Sì, con la musica c'è sempre una bella avventura, perché è l'unico tessuto internazionale che tiene nonostante le divisioni che sono passeggere, e quindi la musica è una consolazione. È una consolazione. E lei oltretutto ha avuto anche un ruolo abbastanza importante nel decifrare quelli che erano, diciamo così, gli spartiti di Chekhov nella biblioteca di Tolstoi, perché so che appunto il nipote di Tolstoi, che attualmente vive a Jasnaya Poliana, l'aveva chiamata appunto per sistemare un po' quella parte. Chissà poi perché gli spartiti di Chekhov erano finiti nella biblioteca di Tolstoi, questa è una delle cose. Le visite, perché Chekhov rispetto a Tolstoi non aveva soldi, quindi Tolstoi era un conte con una proprietà enorme che colpisce l'immaginazione ancora oggi, che è musealizzata, che ci sono i turisti, eccetera, eccetera. Chekhov invece ha preso per la sua casa un pianoforte a Nolo, non ha pagato le rate, quindi gliel'hanno sequestrato, quindi Tolstoi ne aveva due pianoforti e quindi era anche un passatempo per avere un pianoforte tutto per sé. Beh, comunque, insomma, poi un giorno ci racconterà questa storia, ci racconterà delle sue visite a Jasnaya Poliana, ci racconterà dell'archivio di Tolstoi, dove lei ha anche lavorato per un certo periodo. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento con Mosca, con Victor Gajduk, che come al solito ci riempie di sorprese, e questa volta ci ha inviato delle musiche che appunto ha trovato a Radio Mosca e nel Conservatorio di Mosca. È un grande frequentatore di archivi, ricordo che è professore di storia all'Università di Mosca, e quindi gli archivi sono un po', diciamo così, il suo luogo naturale, dove continua a lavorare e dove passa gran parte delle sue giornate. Professor Gajduk ci ha inviato, tra le altre cose, questo brano cantato dall'Armata Rossa con Dina Garipova. Lei può così un po' illustrarci di che cosa si tratta? È una canzone che dura ormai da 100 anni ed è sempre in dotazione del popolo russo in uniforme. La Dina Garipova è la vincitrice, la grande vincitrice del concorso canoro dell'anno scorso. E il suo prodigio è che la sua voce coincide nei piccoli ritagli con il grande coro dell'Armata Rosso. Canterà Addio alla Slavianka, che nasce durante la Grande Guerra, del compositore dilettante Agapkin, sottufficiale dell'esercito degli zar, ma nonostante tutto passa fino al giorno di oggi come un canto più fresco anche sul palcoscenico dei grandi teatri russi. Ecco, allora questa è una canzone che nasce al tempo della Prima Guerra Mondiale con un compositore dilettante, insomma. Sì, sì, un compositore dilettante purtroppo non ha potuto continuare perché è ucciso sul campo di battaglia, ma quindi possiamo solo intuire come potesse crescere grande compositore se era rimasto in vita. I soldati dell'esercito degli zar partono sul fronte di battaglia per difendere la causa slava in Jugoslavia, in quello che poi dovrà essere Jugoslavia, che poi non c'è più oggi. E non per caso ho detto che l'Europa fa i suoi zigzag storici strani. Ecco, quindi la Slavianka è la Jugoslavia. Perché ha anche un altro nome, il nome della marcia serba. Questa canzone. Questa canzone è anche la marcia serba, quindi. Sì, può essere che ha due nomi o tre nomi, ma adesso noi in Russia la chiamiamo Dio la Slavianka. Bene. Perché è contaminata dalla bella canzone anarchica italiana Dio Lugano Bell. Ah, ecco, e quindi è un po' simile, insomma. Un po' simile, però nascono più o meno nella stessa epoca e le canzoni volano dove vogliono. Poi che tanti poi italiani si sono arresi ai russi perché non volevano fare la causa austriaca e quindi hanno portato molte melodie tra il popolo russo. Vabbè, ma si sono arresi ai russi nella Prima Guerra Mondiale? Nella Prima Guerra Mondiale, ma anche nella Seconda, scusami. Ah sì, ecco, vabbè, ecco questo, stiamo confondendo qualche guerra, ma è normale con queste musiche. Ma è normale, ma la più bella di questa storia guerresca è il fatto che le melodie, la maniera di cantare, e questo mi ricorda anche dei prigionieri di guerra italiani nell'immediato dopoguerra a Mosca, un'orchestra dei mandolini con le belle canzoni napoletane, e l'orchestra era guidata da un tale partigiano Walter Misiano. Che suonava canzoni italiane con i prigionieri di guerra che avevano, sì, ovviamente. Era il momento più bello della Radio Mosca nel tempo buio dell'immediato dopoguerra, perché poi non sapevamo che non era italiano, ma era un dialetto napoletano, la lingua napoletana, quindi cercando anche sui dizionari certe parole non si trovavano per molta disperazione, che voleva ripetere con le forze russe le stesse canzoni. E quindi fu una ventata, insomma, napoletana in terra sovietica, una cosa così. Era molto forte, molto bella, che chi è più adulto la ricorda ancora. Sto cercando negli archivi mandolinisti, prigionieri di guerra italiani in Unione Sovietica. Non ho ancora trovato, peccato. Ma sono state trascritte queste musiche, professore? Trascritte sulla carta, ma la difficoltà erano le parole, perché non abbiamo avuto, non so se abbiamo ancora oggi, il dizionario italiano-napolitano o napolitano-russo, figuriamoci se c'era. Sì, no, ci sono dei dizionari ovviamente che aiutano a capire la lingua, l'argot. No, in quel momento, figurati, appena finita la guerra, che dizionari. Erano semmai in giro, sai, per i soldati, per gli ufficiali, questi libretti con parole e frasi essenziali. Ma là c'era soltanto la frase che ricordo ancora: dov'è il presidente del vostro kolkhoz? Doveva chiedere un soldato italiano. E cosa doveva rispondere il povero russo prigioniero? Lui non si sa. Ecco, ho capito. Vabbè, professor Gaidù, ci stiamo un po' divertendo a passare epoche, a passare in rassegna situazioni, a guardare un po' negli angoli dimenticati della musica, e in particolare ecco che ci ha inviato, e poi anche qui ce ne parlerà, ce lo spiegherà, un trio, una boys band che ha un nome italiano in Russia, Bel Suono, e questa band suona, questo bel suono, suona, brutta la cacofonia, ma è così, un brano di Prokofiev Rachmaninov. Di che cosa si tratta, professore? Ah, si tratta di aver messo insieme la musica di Prokofiev e di Rachmaninov, che durante la vita naturale dei compositori erano in antagonismo estetico. Però i ragazzi ventenni del conservatorio di Mosca li hanno messo insieme e non ne vediamo una grande differenza, se no una grande armonia, perché di Prokofiev hanno scelto la danza dei cavalieri di Rachmaninoff, il preludio numero 5 per il pianoforte, che proviene dalla collezione di Rachmaninoff I quadri musicali, tableau di musica. Ecco, ci siamo. Tra l'altro è diretto da Gushin, se sì, non sbaglio. Diretto da Gushin, che è pianista, il capogruppo. Tarasov, un altro ragazzo del gruppo, e Sokolovsky, compositore e arrangiatore della musica, delle musiche di Prokofiev e di Rachmaninoff. Ecco, va bene. Bisogna dire che questi ragazzi mietono un enorme successo qua in Russia, nelle più belle sale di concerto. Certo, è un tale stile all'americana, crossover, cioè la confusione di stili, ecco. Ma ai giovani di oggi, specialmente in Russia, piace molto, e quindi così sapranno almeno che ci sono nella cultura russa un tale Prokofiev e un tale Rachmaninoff. Per me è la bellezza della situazione. Poi la produttrice del gruppo è una bella ragazza, Leila Fattakova, che ad ogni concerto a questi suoi ragazzi e ragazzoni regala una torta Zacher, quindi è una bella torta in onore della loro fatica, di questi ecco, ragazzi. Li regala appunto a questi ragazzi che suonano. Sì, sì, quelli che suonano, quelli che stanno zitti e mangiano anche, però la torta ci vuole sempre. Poi quel che ne rimane è offerto al pubblico delle prima fila della platea. Ah, ecco, quindi c'è questa costumanza di mangiare una torta sul palcoscenico. Sì, sì, perché la torta Zacher, così si chiama mi pare anche in Italia, quella viennese, sì, marroncina, come dire, di cioccolato, molto buona, se fresca, esiste chissà come, ma almeno da 200 anni in Russia, o da 150 anni, Beh, piace molto, solo che in Russia si chiama Praga. Ecco, ma sarà stata importata da Praga, da Vienna. Sì, perché... sì, sì, sì. Comunque è viennese, si chiama dal produttore, dal nome del produttore viennese Zacher, in Russia è arrivata con un altro nome, di Praga. Vabbè, quindi ne siamo molto contenti e golosi. Ecco, lei però, professore, deve stare attento a mangiare i dolci, no? Ah no, io sto molto attento, ma solo a guardarla fa venire i ricordi lontani. Ecco, e quindi insomma, diciamo così che è preso per la gola, e quindi lei deve stare attento ad andare al concerto di questa boys band, perché... di questa boys band, sì, sì... sono sempre le discoteche, le belle sale, però a conclusioni di qualche recital, di qualche concerto, così scaldano il pubblico per poterlo far uscire al freddo dell'inverno russo. Professore, il tempo con lei vola sempre, e vola sempre tra... la nostra appunto registrazione di Milano, che avviene a Milano, e questa aria, queste musiche, questi misteri che vengono da Mosca. Anche quest'oggi abbiamo terminato, ma ci ascolteranno anche in Siberia. Sì, sì, ascolteranno anche in America, perché mi arrivano email che ci ascoltano anche a New York. Per via di internet, questo lo so, ma grazie anche a lei, perché i suoi allievi, i suoi ammiratori sono un po' sparsi in tutto il mondo, e io ne ho trovato uno anche in California che appunto ogni tanto scrive. Ecco, deve essere però un ex componente dell'Accademia delle Scienze dell'URSS, che è finito là. Vabbè, ma comunque insomma ne parleremo un'altra volta. Professor Grajduk, grazie per essere stato con noi, io come sempre do appuntamento domenica prossima alle 21. Un cordiale saluto da Armando Turno e buona festa alle signore e alle signorine, simbolicamente regalo le mimose. Ecco, va bene, per la festa della donna. Grazie professor Grajduk.